Letture di Radio 24. Fanno gli indignati in pubblico e gli affari in privato. Questo è il comportamento che molto spesso i politici adottano con i dittatori più potenti. Esiste però un limite ai rapporti che si intraprendono con questi anche per decoro istituzionale. Secondo Massimo Gramellini, però, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nei suoi rapporti con Gheddafi, non ha fatto altro che applicare le tecniche di adulazione dei vecchi Cumenda Lombardi, più che fare lo statista. Da che mondo è mondo? Coi dittatori ci si indigna in pubblico e si fanno affari in privato. A volte non ci si indigna neppure, si rimane zitti. Un silenzio interrotto solo dal fruscio dei soldi. Mai visto un politico o un imprenditore andare in Cina inalberando cartelli per il rispetto dei diritti civili? Si diventa esportatori della democrazia solo quando conviene, come in Iraq o in Afghanistan. Però esiste un limite che gli statisti cercano di non valicare, ed è il rispetto di sé e del paese che si rappresenta. Quel senso del decoro e delle istituzioni che ti impone di stringere la mano a Gheddafi, ma ti impedisce di baciargliela, che ti costringe a riceverlo con tutti gli onori, ma non ti obbliga a trasformare la sua visita in una pagliacciata invereconda, con il dittatore a vita che tiene lezioni di democrazia all'università e pianta la sua tenda beduina in un parco storico della capitale per ricevervi una delegazione di ragazze prese a nolo. Berlusconi non ha fatto che applicare alle relazioni internazionali le tecniche di adulazione con cui i vecchi Cumenda Lombardi stordivano il cliente da intortare, disposti a tutto pur di compiacerlo, considerando la dignità non tanto un accessorio, quanto un ostacolo alla conclusione di un affare. Qualche lettore penserà: il Cumenda di Stato è solo meno ipocrita degli altri. Verissimo. Ma a me sta venendo il dubbio che l'antica ipocrisia borghese, contro cui da ragazzo mi scagliai anch'io, fosse preferibile all'attuale sguaiataggine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ipocriti e Cumenda di Massimo Gramellini dalla Stampa di mercoledì 23 febbraio. Letture di Radio 24. Da imbranati a guru del business e della moda. Sono i nerds, vera e propria categoria sociologica che indica un popolo di personaggi dediti allo studio e alla rivoluzione informatica. Da sfigati butterati e occhialuti a persone di successo e genialità, come Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg. Un libro di Benjamin Nugent ne racconta l'evoluzione. Cosa hanno in comune Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg, a parte una gigantesca fortuna accumulata sull'onda della rivoluzione informatica? Sono nerd. Fanno cioè parte di una speciale categoria di individui divenuta sinonimo di successo e genialità. Trattasi però di gloria recente. Fino a non molto tempo fa, infatti, la faccenda si poneva in tutt'altra maniera. Vi ricordate Fonzi, il teppista buono di Happy Days? È stato lui a far scoprire al mondo l'esistenza di questa parola. Il guaio è che nel suo vocabolario rivestiva un significato per nulla invitante. Nerd erano quei giovani col volto devastato dall'acne e gli abiti fuori moda, dediti all'immersione indefessa nella lettura. Sfigati senza speranza, allergici all'interazione coi propri simili, a cominciare ovviamente dai simili del sesso opposto. Non bastano tuttavia un paio di occhiali dalle lenti spesse e una maglia della salute per essere un vero nerd. Come spiega Benjamin Nugent nella sua Storia naturale del nerd, esiste effettivamente chi si guadagna l'appellativo per il semplice fatto di essere considerato un tipo strambo, uno sfigato. Il nerd duro e puro è però altra cosa. È votato ad attività tecnicamente sofisticate che escludono un coinvolgimento fisico ed emotivo. Adora tutto ciò che profuma di logica e razionalità. Preferisce Dungeons and Dragons a una stupida partita di pallacanestro e considera una notte di sesso sfrenato poca cosa rispetto al piacere di fare l'alba guardando per l'ennesima volta l'intera saga di Guerre Stellari. Che persone simili siano state tanto invise rientra nella logica della cultura popolare americana, avvezza a pescare i propri eroi tra i surfisti, i cowboy, i giocatori di baseball e le cheerleader. Forgiare giovani belli e prestanti è stato per molto tempo l'obiettivo primario di genitori ed educatori. Teddy Roosevelt giunse a definire l'educazione fisica un'arma di difesa razziale. Endicott Peabody, fondatore della Groton School, manifestava bellamente poca simpatia per gli studenti che pensano troppo. Secondo Sherry Turkle, docente dell'MIT, tutto nasce dal pregiudizio per cui chi è portato al ragionamento non può aspirare a una vita emotiva normale. E se così stanno le cose, un antenato dei nerd potrebbe addirittura essere Frankenstein. Il volto pallido per lo studio, il corpo smunto per la segregazione in laboratorio. Questo scienziato genialoide dell'era romantica è un fallimento totale sul piano dell'empatia. Concepisce una creatura dall'aspetto orripilante e non si domanda come ci si possa sentire sapendo di essere venuti al mondo senza genitori, in seguito a un innaturale assemblaggio di carne morta. Ripensando a The Social Network, dove Mark Zuckerberg viene dipinto come psicopatico e anaffettivo, sorge il dubbio che tra i nerd di oggi e quelli di ieri non ci sia poi una grande differenza. Resta allora da capire se anche creature come Facebook, assemblate con brandelli di intimità e richieste d'amicizia virtuale, siano nuove forme di vita o mostri orripilanti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Imbranati e poi Guru. Ecco la generazione alla conquista del mondo, di Tommaso Pincio, dalla Repubblica di mercoledì 23 febbraio. Dacia Maraini riflette sul mondo arabo in subbuglio, evidenziando la credenza diffusa sul fatto che il popolo del Nord Africa fosse destinato ai dittatori a vita. Una bella accantonata per gli occidentali, che sui territori nordafricani hanno sempre giustificato e male interpretato i segnali del malessere per motivi di interesse. A ragionare sempre in termini di interessi da difendere, si prendono a volte delle belle cantonate. Vedi il caso del mondo arabo in subbuglio. Tutti convinti che i dittatori fossero lì per l'eternità, che il popolo del Nord Africa fosse soggiogato a vita, turlupinato dagli incantesimi del potere. E invece la storia sorprende sempre. Dove si pensava covasse solo il fondamentalismo più ottuso e obbediente, oggi esplode una prepotente voglia di libertà. Il tantam elettronico si è dimostrato più potente delle varie polizie, più efficace dei sistemi di spionaggio ed è esploso con una vitalità e un vigore che nessuno si aspettava. Perché proprio adesso? Si chiedono in tanti. Cos'è successo per far crollare un intero sistema di gerarchie e poteri? Evidentemente erano gusci vuoti, enormi castelli di carta che non hanno retto a un impeto di ira collettiva. Ma chi lo pensava? Tutti convinti che il fanatismo religioso fosse la sola sirena che abbagliasse i giovani arabi. Non si sono resi conto che qualcosa era cambiato e in poco tempo. Le sanguinose repressioni in Iran, i giovani spinti a immolare il proprio corpo in nome di una religione dell'odio e dell'autodistruzione, hanno deluso e amareggiato. Ed ecco il miracolo. Un intero popolo insorge chiedendo dignità e lavoro. Due parole d'ordine che non hanno niente a che fare con il fanatismo religioso. La rete ha agito con forza imprevedibile e la rete non può essere messa a tacere. Perché gli affari, la politica, le leggi, gli scambi e tutta l'informazione passano veloci attraverso quel sistema di scambi. Si può chiuderla, ma solo per poco. Un bavaglio che duri mesi diventa un vero e proprio suicidio. Io ricordo le folle che in Iran chiedevano la caduta dello Shah. Erano folle in nero, che brandivano lugubri stendardi con le facce truci degli imam. Le donne erano coperte dalla testa ai piedi. Le mani si alzavano guantate a chiedere la fine di una dittatura, ma solo in nome di una patria religiosa e fedele. Oggi il clima è cambiato. I giovani chiedono elezioni libere, lavoro per tutti, libertà di stampa e di parola, eppure molti non si fidano. Pensano che dietro ci siano le solite teste barbute, che una volta spodestato il monarca laico, riporteranno il governo dei fondamentalisti. Ma la rete usa un altro linguaggio. È universale, pacifista, anti-autoritario ed emancipazionista. Certo, tutto può succedere. Anche la più radicale delle rivoluzioni del mondo, quella francese, è stata seguita dal terrore e poi da un nuovo impero personalizzato. Anche la rivoluzione russa è stata seguita dallo stalinismo, che era il contrario di ciò per cui tanti giovani si erano battuti ed erano morti. Il momento del passaggio è delicatissimo, lo sappiamo. C'è sempre qualcuno che pensa di approfittarne. Ma il rischio va corso comunque. Schiacciare il bisogno di libertà di un popolo porta solo malattia e paralisi. Il futuro procede anche attraverso scosse pericolose, ma mettere la testa sotto la sabbia fa solo ridere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Le sorprese della storia e le nostre cantonate di Dacia Maraini, pubblicato dal Corriere della Sera di martedì 22 febbraio.